Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. E ce n'è uno oggi che colpisce come un pugno in un occhio. Innanzitutto buongiorno da Irene Zerbini, 14 minuti dopo le 8, 12 agosto 2013. Come avremmo potuto evitare che un ragazzo di 14 anni si togliesse la vita in pieno estate, nel tempo in cui a quell'età dovrebbe essere così felici da essere in pericolo solo per la propria incoscienza, e dove il tormento interiore dovrebbe essere così endemico da essere visibile a occhio nudo di chi è la colpa di tanta solitudine, chi è l'assassino? Così si apre una lettera inviata al quotidiano larepubblica.it da Cristiana Alicata, una scrittrice e blogger, che più di altri forse ha puntato il dito in tante incongruenze. Proviamo a immaginare un paese dove fin dalle scuole elementari si parla di diversità, dice ancora più avanti nella lettera, dove si smontano le paure e si disintegra quella cultura del dominio sulla debolezza che vale per gay, come per le donne, per i migranti, per i rom, valeva per i terroni in terra lombarda negli anni Ottanta, come per chiunque non sia l'effigie del vigliacco bicipitismo italico o di una qualche razza autoctona che rilevi una diversità anche flebile tra le proprie file. Siamo costituiti di gerarchie, di imposizioni generazionali e di genere, di familismo malato e asfittico. E continua con mille spunti davvero interessanti, perché si intravedono tra le righe di questa denuncia anche la possibilità di una via d'uscita. E ci siamo lasciati venerdì parlando di questioni economiche, parlando di pensioni d'oro, tante reazioni alle ingiustizie, alle iniquità dal punto di vista economico e fiscale. Ci siamo trovati nel fine settimana a commentare qualcosa di ancora più profondo, qualcosa di ancora più incredibile nella capitale di un paese del 2013 e non in uno sperduto villaggio. Dove andremo? Andremo proprio in uno sperduto villaggio oggi, altrove però, non in Italia. Andremo in Vietnam nel corso di questa trasmissione, staremo insieme fino alle 10, perché l'articolo più palleggiato da giornale a giornale, con la più vasta esposizione mediatica della settimana che si è conclusa, è stata una sorta di baroni rampanti, li possiamo chiamare così, è una storia versione doppia, padre e figlio, versione vietnamita. Ebbene, questi due uomini dal 1973 hanno condotto una vita da eremiti nella giungla del Vietnam. 4 decenni, l'avrete sentita questa storia, a 40 chilometri dal villaggio più vicino. Era una vicenda dettata dalla guerra sullo sfondo, questa guerra interminabile in Vietnam. E dunque la storia di Ho Van Tan e Ho Van Lang, un padre e un figlio vietnamiti, che sono stati rinvenuti nel centro del paese dopo essere stati dati per dispersi. Nel frattempo si sono cibati di caccia, vegetazione, hanno abitato in una campagna di legno e bambù. Cosa si sono persi in questi 40 anni? Questo ci chiederemo ora che tornano alla cosiddetta civiltà, tra l'altro con delle resistenze grandissime da parte del padre, che proprio non ne vuole sapere. Lui si era visto la casa dilaniata da una bomba, moglie e altri due figli morti, aveva preso il bimbo piccolo nel 1973 con la casa ancora in fiamme ed era scappato nella giungla. E ora ci sono i medici, gli immunologi, si interrogano su come abbia potuto sopravvivere con quel bambino di un anno, che ora di anni ne ha 40, e tantissime reazioni. Si è perso 40 anni di storia dell'umanità, si è perso la fine della guerra, l'evoluzione del suo paese verso un'economia sempre più globalizzata, probabilmente cinema, letteratura, o non si è perso niente, come moltissimi italiani hanno scritto a commento di questo articolo. Questo vorremmo chiedere a voi oggi dalle 9, 800 24 00 24, il numero che potrete chiamare, oppure 349 238 6666. Cosa salvereste di questi 40 anni? Prima dal Vietnam torniamo in Europa e andiamo da alcuni amici così vicini e così lontani. Ci aiuterete voi corrispondenti stranieri che andiamo sempre a snidare al mattino presto, perché loro a loro volta snidano elementi che ci sfuggono di questa nazione, che noi diamo per scontati, ma che colpiscono invece chi non è nato qui, chi ci osserva, poi ci racconta, cioè questi giornalisti stranieri. Innanzitutto, bonjour, buongiorno, Salvatore Aloise, corrispondente per Le Monde. Buongiorno e grazie per l'inno nazionale. Salvatore, tu hai un nome, diciamo così, non proprio da fratello di Brigitte Bardot, ed è già no. Bello il tuo nome, è bello perché racchiude già una storia. Sei figlio di emigranti italiani? Sì, sì, appunto, sono figlio di immigrati italiani negli anni, alla fine degli anni 50. E io sono nato in Italia, ma avevo 2 anni quando i miei si trasferirono nel nord-est della Francia. E da allora ho fatto un po' avanti e indietro fino a quando più di 25 anni fa sono tornato in Italia, pensavo per un paio d'anni, e da allora sono qua creando sempre un po' di problemi a chi, per esempio come voi, insomma, pensa di trovare appunto un corrispondente francese, però da un nome un po' bizzarro come Salvatore Aloise. Molti mi chiamano Aloise e così insomma si risolve la questione. Guarda, non crei nessun problema proprio, anzi abbiamo apprezzato, perché il tuo cognome in qualche modo ricorda che la storia degli immigrati, oggi l'Italia è un paese d'accoglienza, per esempio, una storia profondamente italiana, e quindi è di altissimo gradimento da queste parti anche il tuo cognome. Ora vorremmo capire, grazie a te che vivi qui in Italia e che racconti l'Italia a Le Monde e non solo, è una televisione anche quella per cui collabori, un esperimento decisamente interessante che mette fine a un altro cliché, cioè quello che tra francesi e tedeschi ci sia una rivalità insopprimibile. Tu collabori per questa TV franco-tedesca, cos'è esattamente? E a te appunto un'esperienza strana, a partire appunto da questo che per decenni è stato insomma la guerra prima, poi gli scontri, tutto ciò che c'è stato fino all'ultima guerra, e poi da allora questo che per Mitterrand e Kohl doveva essere un po' il simbolo di questo motore franco-tedesco dell'Europa, quindi hanno creato nel bel mezzo dell'Europa, con la sede a Strasburgo, quindi proprio lì c'è solo il Reno a dividere Francia e Germania, hanno creato questa TV dove la redazione è binazionale, tutto è bilingue, tranne, vabbè, per contratto tutti dovremmo essere anche bilingue, io non lo sono, e qualche volta mi crea qualche problema perché nelle mie piccole poche parole tedesche che so, qualche volta ho provato a rispondere in tedesco e se era un tedesco al telefono quella volta lì mi continuava a parlare in tedesco, quindi ho smesso di scherzare su e quindi rispondo rigorosamente in francese. In francese o in italiano? In italiano, anche perché sì, effettivamente c'è anche molta, è un po' questa la ricchezza della Francia, sono anche lì nella redazione molti con storie anche di immigrati francesi, anche il direttore stesso di questa TV, il direttore dell'informazione, è appunto un figlio di immigrati italiani, quindi insomma c'è questa ricchezza in mezzo all'Europa, in mezzo a questa TV che è un esperimento, quindi e che mi permette di andare a scovare storie. Per esempio, dall'Italia cosa hai inviato recentemente a questa televisione come storie, vicende, punti di vista così da sottolineare? Di cosa ti sei occupato? Beh, ultimamente per esempio ho fatto un reportage sulla 194 e il fatto che in Italia in questo momento sia sempre più difficile abortire, quindi avere accesso a questa legge che c'è, ma che invece è resa vana in qualche modo dal numero impressionante di obiettori. Di medici obiettori. Ho potuto incontrare per esempio una signora che aveva fatto un aborto terapeutico e che ha scritto appunto poi un libro, ha avuto la forza e il coraggio di scrivere un libro sulle vessazioni, sulle umiliazioni subite. Ha poi scritto appunto abortire tra gli obiettori, perché cioè, su, un dato, per esempio nel Lazio 91% dei ginecologi sono obiettori, quindi diventa sempre 91%. Dovevamo aspettare una TV franco-tedesca per occuparci di questo aspetto. Tra l'altro, abbiamo sollevato una domanda all'inizio di questa trasmissione: cosa si è perso in questi 40 anni questo signore vietnamita che con il figlio si è dato alla giungla? Un po' per necessità, un po' per effetti legati a un trauma e un po' per, chissà, forse anche abitudine a un certo punto. E tra gli ascoltatori proprio ora ci segnalano che degli ultimi 40 anni, ci dice Gerlando, si dovrebbero salvare quantomeno in questo disfattismo, no? Perché ci tendiamo, soprattutto noi italiani, a cancellare sempre tutto come se non valga la pena. Si dovrebbero salvare tutti i progressi ottenuti nel campo farmaceutico e medico, e questo si allaccia anche a quello che ci stavi raccontando tu. Quindi hai parlato della 194, ora parliamo anche noi della Francia, perché abbiamo saputo grazie alla stampa della settimana scorsa di venerdì che in Francia c'è un simpatico deputato che ha deciso che la vera Francia non si può capire dai banchi del Parlamento e se ne va in giro con le scarpe da trekking e la cravatta a cercare di riavvicinare la gente alla politica. Come si chiama questo deputato? Jean Lassalle, quindi, che è un po' particolare, partito per capire la Francia, dice, e non certo per diventare un divo, perché non convoca le TV, insomma, fa in modo di incontrare davvero i francesi, no? E non lo fa per una moda o per qualcos'altro. Ma io direi che è un po', come dire, figlio del sistema francese, dove i deputati sono spesso anche sindaci, e in questo caso Jean Lassalle è sindaco di un piccolissimo comune nei Pirenei, che privilegia i rapporti con il territorio, gli elettori, i francesi in senso più generale. Adesso apro una parentesi, non vorrei fare raffronti, No, devi fare raffronti, siamo qui per questo, perché ci è sembrato un punto di contatto questa esasperazione dei francesi, del popolo reale, come la chiama lui, verso la classe politica, sì. E lui che si è visto costretto ad andare in giro con le scarpe a ginnastica, però la cravatta, perché dice che così salva un pochino anche la dignità del deputato, e ci è sembrata una necessità che sarebbe sentita anche da questa parte delle Alpi. Anche in Italia c'è un po' questo scollamento, questa esasperazione. Quali sono gli aspetti in comune e le differenze? Tu che conosci profondamente entrambi gli atteggiamenti. Sì, no, dicevo appunto perché in un sistema di nominati, insomma, attento alle regole, a non disturbare chi ti ha chiamato, certo che non vai alla ricerca ed è difficile che trovi un deputato che cammini, che vada in giro così. In Italia invece ci sarebbe bisogno, perché se la Francia profonda gira le spalle alla politica, in Italia insomma è già praticamente avvenuto, nel senso che bisognerebbe invece andare a recuperare, perché in qualche modo si dice spesso che l'Italia è un po' un laboratorio. E le ultime elezioni hanno mostrato, tra l'altro con il Movimento 5 Stelle appunto, che anche se Grillo dice che l'ha recuperato, questa è la democrazia, invece c'è il rischio che nei nostri paesi europei, si vedrà probabilmente alle elezioni europee, ci sia questo un formidabile movimento di gente che giri le spalle alla politica, perché non ritrova più nei politici, in quello che fanno, un motivo valido per continuare a votarli. Quindi si organizza in Italia, in questo caso con il Movimento 5 Stelle direttamente, in Francia col deputato che va a cercare la gente e raccoglie tutti gli stimoli e fa capire loro che c'è ancora una politica dal volto umano, vicina alle esigenze delle persone. E l'abbiamo trovato decisamente interessante questo personaggio che ci è stato segnalato. Senti, poi tu hai detto, hai scritto, tra l'altro sappiamo anche di una fabbrica occupata e gestita dagli operai. Sì, vicino a Milano, pensando sul naviglio, Rimaflu è un altro appunto di queste possibilità che offre una CV come Artea, la ricerca sempre di storie, di protagonisti, di qualcosa che non, cioè io non faccio, non è una CV che segue un po', cerca di andare a scovare storie da raccontare, quindi abbiamo raccontato una storia. Non solo il grande titolo, dunque non solo la vicenda di Berlusconi o della sentenza di Cassazione, ma la realtà vera. Noi dobbiamo salutarti, è stato un grande piacere stare con te, Salvatore Eloise. Che vino bevi, italiano o francese? Italiano, te l'ho sentito sussurrare del sud, un po' timidamente, devo dire, quindi non cominciamo con Materazzi e Zidane perché ci sei molto simpatico e quindi abbiamo archiviato anche questo episodio. Ti chiediamo semplicemente sulla violenza nei confronti delle donne, sul femminicidio qui in Italia, hai scritto o proposto? Sì, ho provato a raccontarlo, mi è stato detto che in fin dei conti purtroppo è un fenomeno che anche in Francia insomma avevano seguito, perché anche lì siamo a questi livelli, quindi non bisogna credere sempre poi che l'Italia sia sempre peggio degli altri. Anche in Francia c'è questo fenomeno e anche in Spagna per esempio, dove era stato fatto ultimamente un reportage appunto su questo, quindi ci lasciamo su una notazione, un punto di contatto terribile. Grazie a Salvatore Eloise, buona giornata naturalmente, e andremo a incontrare qualcun altro che l'Italia la racconta all'estero naturalmente domani mattina alle 8:15 proprio da Spunti di Vista. Parleremo proprio di femminicidio tra pochissimo e del decreto che da qui a breve dovrà essere discusso, approfondito, sviscerato. Noi lo faremo da questi microfoni tra qualche istante. Spunti di Vista, i mille aspetti dell'attualità. Eh beh, la fantasia, devo dire, crea dei mostri, crea. Addirittura ci stanno dicendo, è abbastanza divertente, che andiamo a snidare corrispondenti stranieri e cercando di trovarli rigorosamente di sinistra. Beh, se esistesse un filtro e un metodo per selezionarli così, chissà, forse lo faremmo anche. Adesso non è che retrocediamo, però se ci volete indicare viceversa un filtro, un metodo per trovare quelli di destra, andremo a cercare anche quelli. Non so come si possa vedere della dietrologia nella scelta di corrispondenti che raccontano un paese. È già un grande onore che ancora l'Italia possa alimentare alle sedi centrali di giornali, radio e televisione internazionali la necessità, la possibilità di mantenere qualcuno sul territorio per raccontarlo. Se poi ci mettessimo anche a selezionarlo con dei filtri ideologici, penso che ridurremmo il gruppetto a 2-3 persone che ci dovremmo rigirare tutte le mattine. Ma a parte questo spunto abbastanza simpatico, al 349-238-6666 continuate a segnalarci e ci fa molto piacere quello che c'è da salvare degli ultimi 40 anni. E ci segnala un ascoltatore l'aria nuova, sempre migliore. Si è perso poco nulla, ci dice un altro ascoltatore un pochino più laconico e rammaricato. Il riferimento è alla vicenda del Vietnam. Ricordate la storia di Ho Van Tan e Ho Van Lang? Sono un padre e un figlio vietnamiti che sono stati rinvenuti nel centro del Vietnam dopo essere stati dati per dispersi nel 1973. Hanno condotto questa vita fuori dalla cosiddetta civilizzazione, con questi strumenti che poi sono stati trovati nel loro rifugio, primordiali coltelli, primordiali asce. E questa vicenda, palleggiata sulle testate dei giornali, delle radio e delle TV di tutto il mondo, ha suscitato diverse reazioni. La più diffusa è stata quasi l'invidia. Beati loro che non si sono vissuti 40 anni di questa storia dell'umanità così desolante. Noi ci siamo chiesti, ma è veramente tutto da buttare alle ortiche o nella giungla? Non c'è veramente nulla da salvare? Vorremmo sentire la vostra voce su questo tema alle 9:15. Pareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Chiama anche il tipo che ha fatto la niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor. Il decreto sul femminicidio varato durante l'ultimo Consiglio dei Ministri, ora ci occupiamo di attualità. Prima della pausa estiva, infatti, è stato varato questo decreto e approderà a Montecitorio, sembra il 20 o il 21 agosto, secondo fonti della Camera, perché il 18 o il 19 verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e il testo deve essere presentato in Parlamento entro 5 giorni dalla pubblicazione. Dunque, la discussione partirà dalla Camera e l'aula di Montecitorio dovrebbe essere convocata il 21 o il 22. Diversi gli aspetti sono stati narrati, enunciati e analizzati in questi giorni, ma diversi, secondo molti, anche i punti critici. E in prima linea, tra coloro che criticano gli aspetti di questo decreto, a sorpresa, gli avvocati penalisti. E dunque, via da casa i mariti violenti, il carcere obbligatorio per gli stalker, questi sono alcuni dei punti: la pena aumentata di un terzo se alla violenza assiste un minore, se la donna è incinta o se l'autore è il coniuge o il partner. Per lo stalking poi, come già accade per la violenza sessuale, la denuncia una volta presentata è irrevocabile. E mentre alcuni plaudono, altri dicono no, attenzione, così non si fa. Tra loro c'è anche l'Associazione Matrimonialisti Italiani e il presidente Gian Ettore Gassani, oggi nostro ospite. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Senta, avvocato, lei è uno di quelli che ha, su questa stretta sul femminicidio, identificato delle luci, e poi ne parleremo, ma anche molte ombre. Cioè, cos'è che non la convince? Ma premetto che la mia associazione sta lavorando da anni per combattere la violenza intrafamiliare. Abbiamo fatto l'ultimo congresso nazionale il 14 e 15 giugno con tantissimi avvocati provenienti da tutta Italia, quindi siamo particolarmente sensibili a una piaga sociale gravissima. Il problema, valutando un po' il decreto e confrontandoci anche con molti colleghi penalisti, molti colleghi dell'Associazione Unione Penali Italiane, beh, insomma, siamo un po' preoccupati per questo. Innanzitutto, per quanto riguarda il reato di stalking, dobbiamo capire che non tutti gli stalker sono dei potenziali assassini, per cui, voglio dire, creare la irrevocabilità della querela significa vanificare anche la possibilità per il 70-80% di stalker, che sono fondamentalmente persone relativamente innocue, di poter cambiare atteggiamento, di poter finire questa condotta criminosa. Soltanto nel 20% abbiamo a che fare con gente pericolosa. Quindi credo, ma non è un rischio da correre, visto le cifre che ogni volta riportiamo purtroppo sulla violenza sulle donne? Non è un rischio da correre che qualcuno magari debba provare la sua innocenza e in seguito liberarsi, magari con un buon avvocato, da accuse infondate o esagerate? Allora, il problema è innanzitutto il buon avvocato. Quanto lo possono permettere, diciamolo francamente? Pochissimi. Perché indubbiamente un buon avvocato ha dei costi elevati rispetto ad un avvocato, tra virgolette, normale, anche se poi io non credo che la fama di un avvocato significhi necessariamente vincere le cause. Vi dico che invece il problema è opposto, cioè? Si rischia di non vedere più denunce, perché nel momento in cui si sa che parte una denuncia e non può essere una querela, che non può essere più rimessa, si rischia appunto che molte donne non denunceranno più, per paura proprio di rovinare definitivamente un uomo, soprattutto se si tratta di un ex fidanzato, un ex marito. Sappiamo perfettamente che già le donne non denunciano, per paura di rovinare il proprio ex fidanzato, il proprio ex marito, e questo è un problema. Però poi che cosa succede? Che proprio la gravità della querela determina poi per molte donne la rinuncia alla querela. In partenza, ancora di più. Esattamente, che la fine di quell'uomo, insomma. Anche un processo dove lui riesce a dimostrare la propria innocenza è la fine, comunque. Perché sappiamo perfettamente che i processi in Italia sono particolarmente lunghi. E quindi potrebbe avere l'effetto opposto a quello per cui si è pensato questo decreto. Voi come la pensate? Sì. Chiediamo anche agli ascoltatori, avvocato Gassani, 800 24 00 24, perché è un decreto che ha decisamente diviso chi l'ha osservato. E mentre aspettiamo le vostre segnalazioni, ci spostiamo in un'altra zona d'Italia dove c'è un altro avvocato, si chiama Milena Miranda. Buongiorno. Buongiorno, Ebbene, buongiorno, questa... buongiorno anche al presidente Gassani. Ebbene, questo avvocato agisce in un contesto socio-economico decisamente critico. Diciamo critico. Cioè, dove lavora lei? Io lavoro a Napoli, sono iscritta presso l'Ordine di Napoli e ho uno studio proprio a Via Tribunali, la zona, diciamo, della vecchia Napoli. Via Tribunali, per chi conosce Napoli, è molto a ridosso di una zona antica, bellissima, il centro storico, ma anche estremamente popolare. E lei ha a che fare, tra l'altro, fa questo lavoro con amore inevitabilmente, agisce a Forcella. Brava, ho fatto attività di sportello e ho, diciamo, per lavoro, per professione, per predisposizione anche, lavorato molto con situazioni che sono rappresentate in realtà in questo decreto legge, ovvero situazioni di violenza in famiglia e violenza di genere. Io ci tenevo però a dire due cose, se mi è possibile. La prima è che comunque saluto con favore questo decreto legge, che, non dimentichiamo, arriva dopo la Convenzione di Istanbul, cioè la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte del Parlamento. Parlamento che però, mi dispiace dirlo, era praticamente vuoto quando si è fatta questa ratifica. Io trovo la cosa abbastanza grave, però la cosa più è anche abbastanza indicativa e significativa, dico, quanto infatti, poi veramente stia a cuore questa infatti, situazione infatti, e questo infatti. Pericolo che le donne, lei ha sentito, corrono un po' in tutti i paesi. Ora l'Italia ha queste cifre così che fanno allarmare rispetto agli altri paesi europei per quel che riguarda gli omicidi. In realtà, per quel che riguarda le denunce, la diffusione della violenza di genere, come vogliamo chiamarla, della violenza sulle donne, siamo perfettamente in linea con gli altri paesi europei, nel senso Ma che non realtà... c'è un paese che in cui venga, in cui ci si salvi da questo tipo di atteggiamento. Non è mal comune mezzo gaudio, però, perché in realtà io credo che le cifre sono basse, l'ha già detto il presidente Gassani, in realtà le cifre sono più basse perché le donne non denunciano. E il mio timore, tra le criticità di questa legge, è che denunceranno ancora di meno. Quindi lei si allinea a quanto ha detto anche l'avvocato Gassani. Da questo punto di vista, l'irrevocabilità della denuncia potrebbe essere un ulteriore deterrente. Le donne già non denunciano per paura, innanzitutto, per situazioni economiche molto molto complicate che le porterebbero ad avere una criticità economica ancora maggiore, perché spesso il marito, compagno, fidanzato o ex che si voglia nei casi di stalking non è altri che colui che mantiene la famiglia, quindi mantiene loro, mantiene la prole, e questo è un problema. Però lei lavora anche con straniere, immigrate, segmenti della popolazione particolarmente fragile. Sì. Questo decreto prevede, tra l'altro, che alle donne migranti vittime di violenza sarà concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ecco, quando lei ha sentito di questo decreto, del suo contenuto, dei vari aspetti, ha pensato che le sue assistite d'ora in poi saranno più tutelate? È un passo avanti? Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. 800 24 0024 numero di telefono, invece i messaggi SMS stanno arrivando al 349 238 6666. Ma ci chiedono anche cosa succede nel caso di false denunce, cioè cosa succede per il presunto stalker. Tra poco gireremo la domanda agli avvocati che ci stanno aiutando a leggere e a immaginare l'efficacia e l'effetto a lungo termine di questo decreto. Prima diamo la voce anche a voi. Buongiorno a Giovanni, pronto? Sì, buongiorno a tutti. Perdonate, non ho seguito tutta la trasmissione sin dall'inizio, ho avuto solo modo di sentire le ultime parole pronunciate dall'avvocato nel penultimo intervento. Avvocato Gianetto Regassani, presidente dei matrimonialisti, sì, dell'Associazione Matrimonialisti Italiani. Dica, che quindi... Non nascondo, mi ha alquanto, diciamo, scioccato, ma al tempo stesso anche indignato questa sua sorta di quasi tentativo di giustificazionista o di alleggerimento o di scusanti, insomma tutta una serie di cose che sono, in una fase come questa dove viviamo purtroppo una quotidianità aberrante che ci presenta questi fenomeni di femminicidio che non sono nient'altro che violenze inaudite, aggressioni incivili nei confronti delle donne, di persone deboli, arrivare a dire che solo una parte sono violenti, ma come solo una parte sono violenti? Picchiare la propria donna e picchiarla costantemente, quotidianamente, non è necessario uccidere, a volte non è necessario neanche picchiare, perché vengono anche utilizzate violenze psicologiche, momenti di sudditanza, cioè è una cosa di una inciviltà aberrante. Il fatto che in Italia accada in percentuali così elevate è un qualche cosa che mi fa letteralmente vergognare. E quindi secondo lei questo decreto, Giovanni senta, prego, prego. Secondo lei questo decreto, è chiaro l'aspetto terribile, indicibile, ingiustificabile di questo fenomeno, ma molti dicono bisogna intervenire a livello culturale, perché sarà solo questo che potrà far sì che l'Italia faccia passi avanti. Attenzione a un approccio come quello del contenuto in questo decreto, non sarà questo che porterà avanti, diciamo così, la situazione delle donne perseguitate, perché di questo si parla, di stalking, non di violenza sessuale, di stalking e di persecuzione. Secondo lei quali sono gli elementi da salvare e gli elementi da invece forse migliorare? Di questo provvedimento? Sì, di questo provvedimento specifico. Questo provvedimento non lo trovo nient'altro che un momento iniziale in cui la società già a livello legislativo inizia a porre rimedio in maniera forte e dura, dopodiché è chiaro che devono essere le istituzioni, devono essere il mondo della cultura, il mondo del giornalismo, che non deve solo riportare il fatto di cronaca e lo sdegno. Comunque il suo voto è positivo, Giovanni, verso questo decreto, mi sembra di capire, il suo giudizio è positivo. È un momento iniziale. Il momento iniziale. Grazie. Grazie. E tra poco daremo la possibilità anche di rispondere e precisare ai legali che oggi sono presenti appunto in questa trasmissione. Sentiamo altre voci. Questo è Domenico. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io non conosco nei dettagli il decreto. Ho chiamato per la sua richiesta sull'opinione riguardo alla denuncia che non si può ritirare. Sì. Diciamo, il discorso qual è? In realtà in Italia io non ho vissuto casi del genere, eccetera, però qualche amico ha vissuto casi di denunce, subite denunce, non per stalker, a livello, come dire, amministrativo, eccetera. Ha dovuto fare, anche avendo ragione, una causa civile che è durata più di 10 anni, con tutti i costi dovuti a questa causa, avvocati, eccetera, perché qualcuno inizialmente non aveva letto bene le carte. Cioè il suo timore è che si corra il rischio di denunce infondate e quindi di mancata tutela di persone che finiscono al centro di queste denunce, che non potrebbero, se non con grande fatica e grandi attese, poi chiarire la propria posizione. Ho capito bene, Domenico? Sì, ho capito bene, questo intendevo. Certo, grazie anche... Sarei per un discorso di di tutela della persona nel momento in cui cioè tipo allontanamento, tenere la persona lontana se ha subito denuncia eccetera, più che andare direttamente a un discorso di irrevocabilità. Sentiamo come la pensa Masiar. Buongiorno. Pronto? Mi sente? Sì, sì. Pronto? Sì, la sento, Masiar, dica. No, volevo dire che appunto mi sorprende un po' la posizione dell'avvocato che sostiene che con la sua associazione si occupa del problema da anni, mi sembra con risultati abbastanza deludenti. La seconda cosa è che appunto ogni volta che in Italia si vuole fare qualcosa di concreto c'è la zecca Garbugli di turno che viene su con la sua proposta che la sa meglio degli, che ne sa più degli altri per mantenere alla fine lo status quo, quindi senza fare nulla. Poi viene fuori sempre il discorso che bisogna fare operare sulla cultura, sulla percezione insomma del problema da parte delle persone, quindi istruzione, che ne so, queste cose qua, appunto mantenendo senza arrivare a dei risultati concreti. Quindi io sono a favore del decreto e vediamo se funziona, se non funziona si cambierà. Grazie, grazie a Masiar. E dunque direi all'avvocato Gianetto Regassani che ha molto materiale sul quale rispondere. Avvocato, lei ha suscitato veramente un vespaio con le sue affermazioni e la sua criticità. Ma a parte il fatto che probabilmente i radioascoltatori confondono il reato di femminicidio, maltrattamento e quello di stalking, sono tre reati distinti e separati. Stiamo parlando di stalking. Di stalking, esatto. Per cui cerchiamo di focalizzare il problema su questo. I decreti non devono mai nascere dalle emotività del momento. Abbiamo sempre stabilito che c'è un fenomeno sociale gravissimo. Noi abbiamo stabilito, per esempio, al congresso che i processi per quanto riguarda i reati interfamiliari devono essere fatti con il rito direttissimo. Quindi su questo credo che anche il decreto, quando parla di corsie preferenziali, sia in linea con la posizione degli avvocati matrimonialisti. Ma non dimentichiamo che anche i penalisti, che sono i nostri fratelli maggiori, hanno aspramente criticato la irrevocabilità della querela. Ma per un fatto tecnico, quando si discute la tutela della vittima, attenzione, non facciamo demagogia neanche nei dibattiti radiofonici. Noi non è che contestiamo il decreto in tutto e per tutto, diciamo che probabilmente molte volte i rimedi sono peggiori del male. Noi dobbiamo specializzare i magistrati, noi dobbiamo specializzare gli avvocati, dobbiamo evitare che per esempio la polizia possa entrare in casa della gente e mandare via uno dei due coniugi, semplicemente sulla base anche della segnalazione di una denuncia anonima di un vicino di casa. Attenzione a questo, cioè non è che la lotta alla violenza in famiglia può avvenire con dei sistemi di Stato, di polizia, che è un altro discorso. Cioè, vorrei far capire ai radioascoltatori, insomma, gli avvocati ragionano in maniera diversa, ma evidentemente hanno un altro osservatorio. Noi dobbiamo fare i processi subito, noi dobbiamo inasprire le pene, dobbiamo soprattutto introdurre il braccialetto elettronico, che è un sistema, ecco, che veramente qui la blocco perché vorrei, prima di entrare appunto in questa strada del braccialetto elettronico, che è una soluzione che lei ha invocato anche da questi microfoni, chiarire questi punti che lei ha percorso in fretta, perché le è stato detto, evidentemente la sua associazione di avvocati matrimonialisti non è riuscita a fare molto per l'Italia, visto i numeri. Gli avvocati matrimonialisti non può fare niente, noi siamo una società di professionisti, è lo Stato che deve intervenire, noi siamo degli studiosi della materia e vediamo, ed è un'associazione nostra composta prevalentemente da donne, quindi non è neanche un'associazione di genere contro la donna, anzi ci mancherebbe altro. Il problema è un altro: quali sono i punti cardinali per combattere, a secondo il nostro punto di vista, la violenza in famiglia? Innanzitutto, specializzazione dei magistrati, lei ha indicato. Ma velocemente, in 10 secondi spiego subito tutto. Innanzitutto creare appunto una magistratura specializzata in materia, perché un conto è inseguire un lato di steri e un conto è andare a stabilire le dinamiche scivolose di quello che succede all'interno delle mura domestiche. In secondo luogo, noi sappiamo perfettamente che un 65% delle denunce sono false, per cui lo ha detto anche la Procura Generale della 65% Roma. Delle denunce sono false? Purtroppo è così, perché quando ci sono separazioni e divorzi esiste poi questa deriva della falsa denuncia per ottenere ottenere immediati risultati processuali. Quindi non possiamo neanche negare che c'è un altro fenomeno odioso, che è il fenomeno delle false denunce, e poi c'è il fenomeno delle donne che non denunciano. Allora, quando si parlava di revocabilità, come diceva anche il collega Spigarelli, presidente dei penalisti italiani, che è pericoloso perché molte donne non denunciano niente, praticamente soltanto il 7-8% delle donne arriva finalmente a denunciare, a liberarsi dalle catene del carnese. E lei teme che questo si aggravi ancora di più, che questo fenomeno, quando una donna oppressa, diciamo così, condizionata, terrorizzata, perché prima di arrivare alla denuncia ci sono mesi, anni di vita nel terrore, che quindi condizionano psicologicamente, e sa di non poter tornare indietro, saprà di non poter tornare indietro, ancora di meno avrà un'inclinazione. Anche l'avvocato Miranda, parliamo di un avvocato come lei che lavora sul territorio, conosce perfettamente il fenomeno, quindi un conto è ragionare teoricamente in un giornale, un conto è stare sul territorio e capire quante pressioni ci sono da parte delle famiglie di origine delle donne che dicono: non denunciare tuo marito, non rovinarlo, se vai in galera abbiamo finito di hai finito di l'onore. Ci sono tante sfumature che vanno analizzate senza emotività e senza chiaramente pensare che uno stato di polizia risolva i problemi. Facciamo i processi subito, facciamo i processi dopo 3 mesi dal fatto, cominciamo a sanzionare pesantemente chi viene poi ritenuto responsabile di questi fatti, perché su questo sono d'accordo con il primo radioascoltatore, anche la violenza psicologica, anche uno schiaffo è un fatto molto grave e che va sanzionato, però ci deve essere comunque un contraddittorio, un processo, che la polizia possa entrare a casa della gente e mandare via il marito o qualche volta anche la moglie, perché non dimentichiamo che il 30% dei reati di stalking viene commesso anche dalle donne. E io penso che questo sia pericoloso, non risolverebbe assolutamente il problema, anche perché lo stalker assassino lui non importa la irrevocabilità della querela, non importa l'intervento della polizia, uccide e basta. Quindi forse se riuscissimo a monitorare i suoi movimenti dopo la denuncia, forse risolveremo veramente il problema, se vogliamo bene alle donne, altrimenti diventa solo demagogia. E qui torniamo ai braccialetti elettronici, che è una misura pratica, concreta, e applicata in altri paesi, con quali esiti? Ne parleremo dopo il GR, perché ora la linea va alle notizie e ci ritroveremo appunto dopo il giornale radio. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E ben ritrovati, ancora buongiorno a tutti voi da Irene Zerbini. Sul femminicidio e sul decreto, di questo stiamo discutendo questa mattina, la gravità della situazione non è messa, come dire, in dubbio da nessuno, e nessuno mette in dubbio la necessità di un intervento della politica. Finalmente diventa una priorità anche della politica la tutela delle donne. Ci sono in Italia case galere, così sono state definite in un efficacissimo documentario di Riccardo Iacona, dove situazioni inenarrabili si consumano per anni. E quello che è innegabile è che le donne che più facilmente riescono a spezzare queste catene sono quelle indipendenti economicamente. Quindi anche questo è un altro aspetto su cui lo Stato deve investire, su cui fermarsi a riflettere, perché cosa tiene la donna intrappolata a questa situazione di prigionia, sottomissione, segregazione, violenza, persecuzione? Spesso la necessità economica, ancora oggi, e spesso anche un'illusione quasi psicologica che l'uomo che ha davanti cambierà, la persona che la perseguita un giorno aprirà gli occhi, oppure che sì, quelle cose gravi succedono alle altre, ma non è il suo caso, non è quello che lei sta vivendo. E proprio sulla consapevolezza delle donne e sulla necessità di prendere consapevolezza se la propria situazione sia una di quelle a rischio, e prima che sia troppo tardi, hanno lavorato anche dei ragazzi molto giovani, che saluto e ringrazio per il loro tempo. Buongiorno a Massimiliano Margarone. Buongiorno. Massimiliano Margarone, insieme a Francesco Pini, ha creato con Smartland un'applicazione web che può aiutare le donne ancora prima della denuncia a prendere consapevolezza della propria situazione. In cosa consiste, Massimiliano? Ce la racconti? Sì, è un test che viene effettuato sul telefono cellulare, quindi uno strumento che molti hanno in tasca, ecco, uno strumento intimo possiamo chiamarlo, è un test che serve nella fase di prevenzione, quindi in un momento in cui, come diceva giustamente prima, la donna non si rende ancora conto della sua condizione, oppure non vuole rendersene conto, o pensa che qualcosa, che le cose miglioreranno. Quindi ma in questo test che la donna, diciamo, fa a se stessa per capire a che punto si trova, cosa chiedete, in cosa consiste, visto che sono domande, una sorta di questionari? Sì, è un insieme di domande, sono 60 domande, quindi si riesce a svolgere in relativamente poco tempo, e riguardano qualsiasi ambito, sia personale, sia di coppia, e al termine di questo test viene comunicato un esito, che se è a rischio o non se è a rischio. L'invito è di approfondire poi coi centri antiviolenza, coi professionisti specializzati nella violenza contro le donne, sulle donne. E nelle applicazioni, infatti, si rimanda a un elenco di questo tipo. E questa applicazione si chiama Save the Woman ed è stata vincitrice del premio etico Best Practices 2013, tra l'altro sì, realizzata per la Onlus SOS Vittima. È molto così, ha colpito il fatto che siate dei ragazzi giovani, informatici, di solito vissuti, visti come lontani anni luce dai problemi delle donne o di violenza domestica, invece vi siete attivati, avete donato il vostro tempo, le vostre competenze. Perché? Cosa vi ha colpito di questo fenomeno? Come tutti siamo stati spettatori di questo problema da anni. Noi poi, lavorando in applicazioni nel quale abbiamo lavorato anche per i ciechi, ecco, applicazioni turistiche per guidare i ciechi all'interno di una struttura e così via, quindi abbiamo pensato come si potesse l'informatica, uno strumento informatico, dare un contributo a questo problema. Grazie dunque agli ideatori di Smartland e di questa applicazione per telefonino, e si chiama Save the Woman, che dovrebbe aiutare ad aprire gli occhi, perché c'è ancora questo problema della coscienza della propria situazione. Avvocato Milena Miranda, lei che ha lo sportello a Forcella, è tesoriera della Casa delle Donne, ma le donne che vivono queste situazioni di violenza e di persecuzione sanno, sono consapevoli dell'emergenza che stanno vivendo, o ancora oggi sperano che le cose possano cambiare, che l'uomo che hanno di fronte possa cambiare e che tutto si aggiusti da sé? Lei che realtà rileva nella sua esperienza, avvocato? La realtà che rilevo io è molto più complessa. Quando si parla di una legge, si parla di inasprimento delle pene, diciamo che è soltanto un piccolo aspetto, e chi lavora con casi del genere sa che l'inasprimento delle pene non serve. Da solo comunque non basta. Cioè non basta o non serve? Non basta, non, secondo il mio modestissimo punto di vista, non serve, perché non è l'inasprimento di una pena a fare da deterrente a un modo di comportarsi. Quando l'uomo non riconosce l'uomo o la donna, nei casi anche di stalking fatti da donne, non riconosce l'altro da sé e la determinazione dell'altro a decidere di interrompere una relazione, e quindi inizia questa fase ossessiva di stalking, di ricerca dell'altro, questo senso di possesso portato all'estremo, non serve che ci sia l'inasprimento della pena, né tantomeno l'inasprimento della pena gli fa da deterrente. Quello che può servire invece è una maggiore rieducazione dalla base. l'educazione a riconoscere l'altro, avere il rispetto dell'altro. All'interno di questo decreto, peraltro, l'articolo 5 dice, cioè promette di garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking. Ma se si fa una legge a costo zero, come purtroppo se ne sono fatte tantissime negli ultimi anni, non si risolve nulla. Non è che io sia contraria a questa legge, anzi la saluto veramente con estremo favore nel momento in cui riconosce finalmente il femminicidio e la violenza di genere, in particolare nei confronti delle donne, finalmente lo configura come reato. Ma le donne sono sole, arrivano presso gli ospedali e non c'è presso il presidio nessuno che le sappia consigliare. Vede, lei ha appena intervistato dei ragazzi che sono straordinari perché hanno creato questa applicazione sul cellulare. Bisognerebbe trovare anche persone che diano informazioni. C'è bisogno di una rete, una sinergia di forze dalla scuola al contesto nel quale si vive, all'ospedale. Ai magistrati specializzati, come ci segnalavano. Assolutamente, anche il magistrato specializzato deve esserci, addirittura io sarei per un tribunale della famiglia, perché non si può pensare che il reato venga trattato da un tribunale, un altro reato che riguarda i minori dal tribunale dei minori, magari c'è anche una separazione in corso e bisogna attivarsi su tre tribunali differenti. Io questa la trovo un'aberrazione che, tra parentesi, so che è soltanto italiana, perché in nessun altro paese europeo funziona così male, ed è una cosa che già chi affronta i processi sa, noi avvocati purtroppo più di tutti, che porta delle lungaggini, ma questa cosa porta allo stremo. Quindi basta immaginare una donna o un uomo, insomma, nella mia esperienza veramente sarà stato uno, cioè dei casi veramente limitatissimi, comunque quello che sia, che sta subendo lo stalking, che va a denunciare e che comunque si ritrova da solo. Normalmente sono le donne che si trovano da sole, sono le donne che devono poi affrontare tutta una serie di problematiche. Certo. Si è parlato di centri di assistenza. I centri di assistenza chiudono perché i soldi non perché ci mancano sono. I fondi. Parecchi centri di assistenza, nel napoletano ce ne sono diversi, sono praticamente gestiti da privati e con la buona volontà e i soldi di questi privati. Io lo trovo vergognoso, questa è una piaga sociale e qui si configura anche l'assenza dello Stato. Un investimento. Anche grazie. Grazie, prego, avvocato, prego, Miranda. Prego. Le conclusioni, lei ha citato tra l'altro l'unicità italiana. Chiedo a Gianetto Regassani in un minuto, dunque, cosa guardare, cosa mutuare dall'estero, visto che voi matrimonialisti e la sua associazione ha una vastissima esperienza internazionale. Cosa funziona, avvocato? Ma innanzitutto, come giustamente dice l'avvocato Miranda, che saluto, la frammentazione delle competenze giurisdizionali è un problema solo italiano, per cui un unico caso familiare può essere trattato tranquillamente da tre magistrati diversi, e questo è un problema che rallenta e complica le cose. Negli altri paesi esiste un unico giudice che si occupa dell'intera vicenda familiare, e quindi bisognerebbe investire su questo, ma questo significa determinare spese enormi che probabilmente noi non ci possiamo permettere, per cui inaspriamo le pene, creiamo l'irrevocabilità della querela e finiamo lì. Ma poi che cosa succederà? Quando la donna denuncia, avrà una scorta? Non l'avrà, per cui rimarrà sempre sola. Lei parlava di braccialetti elettronici, avvocato Gassani. Il braccialetto elettronico in tantissimi paesi d'Europa funziona. In Italia dal 2000 se ne parla ed serve proprio per prevenire e monitorare le mosse dello stalker. In buona sostanza, il 40% delle donne che sono state assassinate l'anno scorso avevano già sporto denuncia contro il loro carnefice e sono state uccise. perché una volta fatta la denuncia, quella denuncia si è trasformata in una condanna a morte. Noi dobbiamo ragionare su questo. Io ho paura molte volte degli italiani, perché si innamorano delle loro tesi, non riescono poi minimamente a fare un passo indietro. Il problema è proprio questo: monitorare il territorio, recuperare, riabilitare lo stalker e soprattutto introdurre questo sistema elettronico del braccialetto, che in Italia ne abbiamo 400 ma sono ancora imballati, nonostante le spese che sono state affrontate per poter creare con la Telecom appunto la rete di collegamento in tutte le province. Ebbene, perché non investiamo su questo? Noi dobbiamo capire i movimenti dello stalker, il quale, nonostante la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare o la impossibilità per lui di avvicinarsi al domicilio dell'ex fidanzato, all'ex moglie, bene, molte volte questi continuano a fare gli stalker e addirittura arrivano al gesto estremo. E quindi il braccialetto elettronico esiste in tutta Europa. Una soluzione Europa, pratica che funziona. Questo il suggerimento sul quale ci lasciamo e ci scusiamo naturalmente. Ma vorrei anche precisare una cosa, giusto? Velocissimo. Saluto con favore lo spirito del decreto, nel senso che finalmente c'è qualcosa che si muove. Finalmente un'agenda paese. Politica. Ma non credo che i decreti debbano essere accettati supinamente per quello che sono e non debbano essere poi eventualmente emendati o messi in discussione. Discussi. Perché se grazie. Ragioniamo così vuol dire che non siamo in democrazia. Grazie all'avvocato Gianettero Gassani. Ci scusiamo con tutti quanti avrebbero voluto prendere parte a questa discussione. Non c'è stato modo di dar voce a tutti. Ritorneremo a parlare naturalmente di questo tema, che è diventato finalmente non solo un tema sociale ma anche una priorità della politica. Clash, aiutarci, ci spostiamo infatti con questa Charlie Don't Surf in Vietnam per parlare di 40 anni di vita nella giungla, in fuga dalla guerra del Vietnam. Questa è la storia di Ho Van Tan e Ho Van Lang, un padre e un figlio vietnamiti, che sono stati ritrovati nel centro del paese dopo essere stati dati per dispersi. Era il 1973. Ora, una storia che ha impressionato, che ha alimentato fantasie e riflessioni un po' in tutto il mondo, proprio per questa possibilità concessa in una maniera traumatica naturalmente a questi due uomini, uno era un bambino di appena un anno e uno era un uomo di 40 anni, di allontanarsi da tutto e tutti perché saturi, perché non ne potevano più probabilmente e della guerra e del dolore che personalmente quest'uomo aveva vissuto. Ma per capire cosa è successo esattamente ringraziamo il responsabile di formazione per le imprese presso una università internazionale di Ho Chi Minh, Mattia Miani, che abbiamo con noi. Buongiorno Mattia. Pronto? Buongiorno. Che ore sono a Ho Chi Minh? Pronto? Sono le 2 del pomeriggio. Circa le 2 del pomeriggio, ma questa linea internazionale proprio non regge. Avremmo voluto continuare la conversazione con lei e capire esattamente come è stata vissuta in Vietnam questa vicenda che si è accaparrata i titoli e le prime pagine di giornali, radio, televisioni un po' in tutto il mondo, naturalmente anche blog, internet. Si sono tutti rilanciati la vicenda incredibile di qualcuno qualcuno che è riuscito a stare lontano dalla civilizzazione per 40 anni. E anche voi ci state segnalando cosa queste persone possibilmente si sono perse, perché è su questo stimolo che vi invitiamo a intervenire oggi. 40 anni lontano da tutto e da tutti, un moto di invidia per molti che hanno saputo di questa possibilità o di questa vicenda, ma è stato veramente tutto da buttare quello che abbiamo vissuto in questi 40 anni? È veramente semplicemente una sintesi di sfascio, guerre, distruzioni, e anomia, se vogliamo, perdita di valori e quindi regresso? È veramente tutto così? Cosa si sono perse queste persone? Soprattutto se questa possibilità di vivere nella giungla per 40 anni fosse stata data a uno di noi, cosa ci saremmo persi? Per i vostri contributi, 349-238-6666. Buongiorno Silvia Vegetti Finzi, benvenuta. Silvia Vegetti Finzi è una notissima psicologa e psicoterapeutica, docente di psicologia dinamica all'Università di Pavia, e anche lei ha vissuto insieme a noi lo stupore per questa storia. Cosa si sono persi, professoressa, in questi 40 anni, questi due esseri umani inconsapevolmente protagonisti della vicenda più commentata delle news della settimana scorsa? Ma innanzitutto mi lasci dire una cosa brevemente, che questa persona, Ovan Tan, ha subito quello che noi chiamiamo uno shock post-traumatico, la perdita sotto i bombardamenti americani del suo villaggio, della sua comunità, della sua famiglia, la moglie e due figli, ha provocato in lui questo shock post-traumatico che l'ho posto di fronte a una scelta molto radicale, la stessa che certi trovano nell'autismo, cioè rinunciare a vivere per sopravvivere. La sua è stata una scelta di sopravvivenza che gli ha evitato la vita psichica a favore della vita biologica. Infatti nella giungla per 40 anni ha vissuto in termini di mera sopravvivenza, rifiutando tutti gli aiuti che pure talvolta gli venivano forniti dalla civiltà. Questa regressione alla pura, alla mera vita biologica è una forma di difesa. Che cosa poi ha perduto? Secondo me ha perduto soprattutto la sua vita, ha perduto la possibilità di vivere nel tempo, perché lo shock post-traumatico ferma il tempo in un eterno presente, ha perso la possibilità della vita quotidiana, cioè di quel tessuto di rapporti strettissimi quotidiani in cui si delinea la nostra identità e in cui accadono poi grandi avvenimenti della vita di ognuno, la nascita, l'amore, la morte, a favore appunto di un blocco, di una fissazione nel qui, ora, nel presente, che doveva essere difensiva e invece lo ha privato, e ha privato anche il figlio, della sua umanità, tanto che quest'uomo di 40 anni, il figlio, non parla, pronuncia solo alcuni termini gutturali, e perdere il linguaggio vuol dire perdere le esperienze e ogni possibilità di relazione. Speriamo che il ritorno nella civiltà possa aiutarlo a recuperare il tempo perduto e soprattutto quella vita che il padre gli ha precluso. Ah, quindi lei fa un distinguo tra la scelta del padre, che è stata una scelta, perché comunque di vita ne aveva avuta, aveva creato una famiglia, aveva altri figli, si è visto la casa dilaniata da una bomba, altri due figli morti proprio quel giorno che si è dato la fuga, la moglie morta, e il bimbo che di scelta, secondo lei, ne ha avuta ben di meno, insomma. Fa un distinguo. È stato portato un anno nella giungla, evidentemente il padre non ha intrattenuto con lui quello scambio verbale, quello scambio di commento della vita che serve appunto ad alimentare il pensiero. Io non so se quest'uomo riuscirà completamente a ritrovare le capacità perdute, le funzioni mentali che sono state bloccate all'infanzia. Sicuramente qualcosa recupererà, ma non penso che riuscirà mai a esprimere appieno quelle potenzialità in cui consiste la nostra vita, perché gli è stato negato il futuro. C'è qualcuno che ci ha segnalato, e questo ha grandi punti di contatto su quanto lei ha appena detto, professoressa Silvia Vegetti Finzi, che soprattutto questi due vietnamiti per 40 anni nella foresta si sono persi la gioia delle piccole cose, di guardare un'opera d'arte, di conversare con le donne, ci segnala Roberto. Simpatico. Sono piaceri senza tempo, e quindi non scambierebbe lui la sua situazione condizione di uomo, se vogliamo, alcuni dicono alienato, distrutto dallo stress, immerso nella civiltà del ventunesimo secolo con quella del barone rampante vietnamita, che invece ha ispirato tanta nostalgia e tanta voglia, secondo tantissimi commentatori in giro per il mondo. Cosa si sono persi? Si sono persi, sì, questa possibilità di relazione, di stare con gli altri. Soprattutto questo ci viene segnalato. Noi vorremmo saperlo da voi. 349-238-6666. Questo è il numero che dovete comporre per gli sms. Se invece volete partecipare, sappiate che il numero è 800-24-00-24. Roberto, pronto? Pronto, buongiorno a voi. Buongiorno, da dove chiama? Io chiamo dalla provincia di Biella. E la tentazione di fuggire tra gli alberi l'ha avuta anche lei nella vita? Ma, più che tra gli alberi, diciamo di costruirti una realtà parallela, nel senso che siamo in un sistema civilizzato, ma che a volte ci prende alla gola proprio. Ci prende alla gola, sì. Ci obbliga. È una fantasia inevitabile. Roberto, ci segnali le cose che secondo lei in questi 40 anni, queste due persone, che chiaramente sono un pochino un pretesto per guardarci addosso, per guardarci indietro, per guardare la nostra storia, i punti che lei salverebbe? Ma più che negli ultimi 40 anni, diciamo, sono esigenze, secondo me, senza tempo. Sono il piacere di leggere un libro, di leggere un classico di Platone, di Seneca, di provare emozioni guardando, che so, un quadro o una Cappella Sistina, e ricollegandosi al problema di relazione che accennava la psicoterapeuta che è con noi, la Silvia Vegetti Finzi, vedendo che sono due maschietti, proprio il piacere di conversare con una donna, che è veramente impagabile, insomma, confrontarsi con l'altro sesso, che purtroppo non hanno avuto l'opportunità. E grandi eventi, grande cinema, grande musica? Quello è tutto ovviamente racchiuso nell'opera d'arte, perché tutto può essere un'opera d'arte, può essere un piatto cucinato, può essere un orto ben curato, quello è tutto un'opera d'arte. E quindi anche di conseguenza il cinema, la musica fa parte di quella. Quindi lei non ha escluso nulla. Grazie a Roberto per questo intervento sintetico e esaustivo. Cosa si sono perse queste due persone che hanno vissuto 40 anni nella foresta? Torneremo insieme per parlarne. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Beh, una voce che ha emozionato generazioni intere, quella arrivata lì il 21 luglio del 1969 a tutto il mondo. Buongiorno a Severino Salvemini. Buongiorno. Buongiorno, lei è docente del Dipartimento di Management e Tecnologia dell'Università Bocconi di Milano e ha assistito anche lei a questo sbarco sulla Luna, non per darle un'età, professore. Facevo la maturità in quegli anni. E immagino tutta anche l'Italia, i suoi coetanei di allora si siano fermati quel giorno, grande emozione. Mi ricordo proprio che abbiamo interrotto gli studi per vedere la televisione, per vedere che cosa succedeva. Però questo non dovrebbe esserselo perso il nostro amico vietnamita, perché lui si è dato alla giungla nel 1973, quindi qualche anno dopo. No, però lui negli anni precedenti comunque era un guerrigliero, era un Vietcong, quindi non penso che in quegli anni lui avesse tempo di guardare la televisione, cosa che non c'era, e di interrompere le battaglie, perché i Vietcong avevano una dignità guerrigliera molto forte. E secondo lei cosa ci saremmo persi noi se ci fossimo trovati in questa situazione di fuga dalla globalizzazione, dalla civiltà? Ma dunque, innanzitutto volevo dire, perché lei ha iniziato parlando del fatto che molti invidiano questa... Sì, abbiamo rilevato questo. Questo ruolo di primitività, no? Allora, credo che comunque sia un po' un atteggiamento che incrocia lo snobismo e un ambientalismo slow life. Cioè, anche Flaiano diceva, lei non lo sottoscrive, sarà un progresso, ma Flaiano era un grande aristocratico. Io credo che sia proibito essere pessimisti negli ultimi 40 anni, no? I Sex Pistols dicevano negli anni 80 things can only get better, cioè solo, c'è solo da migliorare, e in effetti anche se gli ultimi 40 anni hanno molte ombre, ci sono tante cose che comunque hanno migliorato il mondo, al di là di migliorare il Vietnam. Voi avete fatto prima una trasmissione di molti minuti sul tema dell'emancipazione femminile. Beh, credo che questo sia un dato sia sull'emancipazione femminile che sulla pariteticità di genere che i nostri due abitanti del Vietnam negli anni 70 non avrebbero mai immaginato. E poi anche il tema della globalizzazione, che molto ha cambiato nei paesi indocinesi, comunque hanno portato alcuni elementi, diciamo, di più minacciosi, ma moltissimi altri elementi importanti di occidentalizzazione delle idee, della cultura, di apertura al libero mercato, di miglioramento della salute del pianeta, di accesso alle informazioni, di innalzamento di standard di vita. Cioè, non è possibile pensare che questi 40 anni siano andati solamente male. È vero quello che avete detto, che le convenzioni sociali cui siamo sottoposti oggi contribuiscono un po' a degradare il nostro benessere, cioè abbiamo ritmi serrati, stress prolungati, l'alimentazione poco sana, però da lì a dire che è meglio tornare ad essere primitivi, questo ci è stato segnalato, e lei invita invece così a soffermarsi sugli aspetti, quelli positivi che diamo per scontati e perdiamo un po' di vista nel flusso di informazione cronaca nera. Pensiamo solo che cosa la mobilità internazionale ha prodotto anche in termini di rimescolamento delle gerarchie della società. Tutta una serie di cose che erano immobili una volta, sembravano assolutamente impossibili da scardinare, certo. Invece anche l'osservarsi a vicenda, la possibilità di muoversi agevolmente da una parte all'altra del pianeta in termini relativamente economici ha cambiato la prospettiva e le possibilità di immaginare società diverse. Senta, c'è qualcuno? Salvemini? Al primo posto l'elemento principale è sicuramente la tecnologia, internet, i telefoni cellulari e queste cose. Professor Salvemini, chi pensa che degli ultimi 40 anni ci sia poco o nulla da salvare, sicuramente non ha vissuto i 40 precedenti. Ci segnala un ascoltatore al 349-238-6666. E poi seguono innumerevoli messaggi del tenore del tipo forse si sono persi Silvio, beati loro. Pupi Avati si è unito a noi, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Io purtroppo, come sapete, sono in partenza. Vabbè, comunque. Grazie per la sua disponibilità a discutere con noi. Questo è un regista, Pupi Avati, che secondo noi più di altri ha saputo raccontare lo scorrere del tempo. E tra poco uscirà anche, o è già uscita la sua autobiografia, La Grande. Da 4 mesi. Da 4 mesi l'autobiografia, La Grande Invenzione, perché ci segnalano un percorso nella storia d'Italia. Lei cosa avrebbe salvato di questi 40 anni, Pupi Avati? Avendo io 74, voglio dire, andare indietro di 40 anni va da quando avevo 37 anni, quindi sono gli anni in cui si è in qualche modo imposta la mia nuova professione, perché ho cominciato a fare il cinema a 30 anni, quindi sono stati anni in qualche maniera esaltanti, ma perché ognuno di noi ha una visione del credo, della società, del tempo, della situazione che, se è onesto con se stesso, lo riguarda molto da vicino, quindi è molto difficile guardare oggettivamente il trascorrere degli anni, se non relazionandosi a come ti sono andate le cose. Io, a me personalmente, insomma, nel senso professionale, finalmente ho trovato la mia identità grazie a quei vituperati anni, fine anni 60, 68, insomma, quel momento in cui ognuno ha avuto l'ardire, il coraggio, la sceleratezza di uscire allo scoperto e dire io provo a fare questa cosa e non c'era nessuno che si opponeva. Io ho fatto così col cinema, insomma, in qualche misura, avendo fatto ormai più di 40 film, è andato anche abbastanza bene. E quindi per me questi ultimi 40 anni sono stati anni di lavoro, soprattutto di impegno, in cui sono riuscito finalmente a dire chi ero, perché poi credo che il tema centrale di ogni essere umano è riuscire a dire attraverso quello che fa chi è. È evidente che ogni tanto mi capita di immaginare se mio padre, che è venuto a mancare 50 anni fa, ecco, si trovasse improvvisamente anche solo per un giorno a vivere il presente, è evidente che sarebbe totalmente sconvolto, insomma, sarebbe un po' disorientato, lei dice. Totalmente disorientato, non soltanto dai progressi tecnologici che sono fantastici, strepitosi, dei quali tutti ci siamo avvantaggiati, ma anche da quelli che sono gli scombussolamenti che sono intervenuti nei riguardi di quelle che sono le istituzioni centrali di una società, soprattutto la famiglia. Io mi occupo di famiglia, come forse qualcuno che conosce il mio cinema sa, e insomma la famiglia nell'ultimo mezzo secolo è diventata cosa ben diversa da quella che era la famiglia dalla quale io provengo e dalla quale sono nato. Senta Pupi Avati, lei tra l'altro sta preparando questo film per la televisione in cui il bambino cattivo si intitola, in cui lei osserva con gli occhi, o fa osservare grazie agli occhi di un bambino di 11 anni questo sgretolamento del matrimonio, la sofferenza della separazione dalla parte dei bambini, e ha dichiarato che alcuni padri che proprio non si curano, alcuni genitori, lei l'ha detto in generale, poi ha specificato soprattutto i padri, dovrebbero invece rendersi conto del male che fanno. Ora, la storia di questi due vietnamiti nella foresta riguarda un padre e un figlio spariti per 40 anni. Il padre è stato molto criticato da alcuni perché è stato detto lui ha fatto una scelta per conto terzi e ha fatto sì che il figlio non potesse avere delle opportunità, cogliere delle occasioni. E lei si unisce al coro di chi critica questa scelta come irresponsabile, visto che è un grande osservatore della paternità. Certamente sì, non posso assolutamente condividere chi ha privato un figlio, ma chiunque, della libertà di misurarsi col mondo che nel frattempo diventava ogni giorno altra cosa, e quindi crescere dentro una cultura che via via cresceva, aumentava. E io credo che questa vicenda sia una vicenda terribile. Quindi lei non l'ha presa come un fatto di costume sul quale sorridere, scrollare le spalle e liquidare, no, con un beati ridere. Loro quando si tratta di bambini, secondo non si me, può si ridere sorride, si sorride con troppa facilità, con troppa leggerezza. Lei provi a tenere per mano un bambino di un decenne, di undicenne, nel mio caso un undicenne. Nel momento in cui i suoi due genitori litigano, ecco, lei lo tenga per mano un attimo, ecco, si come quarta presenza non vista, ma riesca a raggiungere la sua mano e senta le vibrazioni di questo essere umano, di questo esserino umano, quanto questo bambino trepida all'interno di questo tipo di situazione che non tiene conto della sua sensibilità. Io, lavorando molto con i giovani, perché malgrado io appunto sia un settantenne, ho nelle mie troupe sempre ragazzi giovani, ecco, e tantissimi di questi giovani sono figli di situazioni così, di complesse, insomma, di matrimoni che hanno avuto una durata molto breve, di madri insomma non felici, o, insomma di situazioni complicate. E questi ragazzi che mi considerano, essendo io appunto non solo un regista per loro, ma sono diventato ormai anche il loro parroco, il loro confessore, il loro psicanalista, sono un po' tutto, insomma, si confidano con me, mi raccontano le ragioni del loro rammarico, e molto spesso sono legate a queste figure paterne, che sono veramente figure paterne molto molto molto scadenti. Io ho dedicato 4 film alla figura paterna, quindi, e continuerò a farlo, perché secondo me essere padri scadenti è una grandissima responsabilità ed è molto grave. E questa storia che ci è stata raccontata dal Vietnam parla proprio di un padre e di un figlio, un padre che quasi essere giustificato ha vissuto un trauma, però attenzione, nel senso che quel giorno si è visto, il giorno in cui si è dato la fuga, la casa bombardata da una bomba, altri due figli morti, e ha preso questo bimbo che non era neanche il più piccolo, c'era un altro neonato, evidentemente ha dovuto anche compiere una scelta e ha pensato che forse il neonato senza il latte della mamma non si sarebbe salvato nella giungla e si è dato alla foresta. In questi anni, poi è emerso da vari resoconti più dettagliati e meno emotivi del primo, in realtà era stato contattato varie volte da cugini, alcuni di un villaggio vicino sapevano dove viveva, portavano loro del tabacco, portavano loro del vestiario che però non veniva utilizzato, e si è sempre rifiutato quest'uomo, che oggi ha 82 anni, di tornare nel villaggio. E quando il figlio invece ha accettato questo richiamo, perché è stato il figlio a decidere, lui l'ha vissuto un po' come un tradimento, come se il figlio avesse tradito questa scelta allo stato brado che lui aveva deciso per entrambi. Un padre, come dice Pupi Avati, scadente, un aggettivo che è anche una responsabilità, naturalmente. E le chiedo dunque, Pupi Avati, lei ha anche un nipote o ha vari nipoti, ha dei bambini con i quali si confronta, e per questo forse non ha quell'aridità che spesso condiziona e impermea un po' i discorsi di noi adulti e degli adulti italiani in particolare. Sempre queste persone così disfattiste, molti sono anche tra gli ascoltatori coloro che ci segnalano che è stata migliore la vita di questi due vietnamiti nella foresta che la nostra qua, a subirci tutte queste vicissitudini politiche a volte tormentate. Lei cosa risponde per concludere? Pronto? Mi ascolta? Sì, certo. La situazione di questo padre è una situazione estrema, quindi non lo si può giudicare avendo come origine un evento così traumatico per il quale, secondo me, a questo punto puntare il dito contro questo genitore è molto complicato, molto difficile ed assolutamente ingiusto, e io non mi sento legittimato a farlo. Seconda cosa, io le comunico, essendo una persona sicuramente molto più anziana di lei, che le persone vecchie, che i vecchi hanno dentro di loro tutte le età della vita, non sono soltanto vecchi. Io sono rimasto quel bambino di 11 anni che ha scritto quel lungo monologo dal quale poi io traggo il film Il bambino cattivo. Quindi ho l'esperienza, la vibrazione, il come si riflette su un bambino, il mondo, la situazione familiare, il contesto sociale. Io sono riuscito a riprodurlo su di me con una facilità estrema, perché se c'è un mondo psicologico che è vicino all'infanzia è la vecchiaia, perché entrambi, sia la vecchiaia che l'infanzia, vivono la vulnerabilità, che è un elemento di sensibilità che estremizza la sensibilità, che la rende talmente forte, talmente comunicativa, talmente percettiva. Per cui io veramente, quando mi trovo a confrontarmi non solo con i miei nipotini ma con qualunque bambino al mondo, io riconosco qualche cosa che mi assomiglia terribilmente adesso che sono diventato anziano. Grazie a Pupi Avati per queste parole estremamente profonde che fanno riflettere, soprattutto nella giornata in cui ci troviamo a commentare anche da giornalisti, mentre si invocano leggi sull'omofobia, la fragilità di un ragazzo di 14 anni che a Roma si è tolto la vita perché deriso, perché gay. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Und dann entscheiden die Grenzer, allesamt MFS-Mitarbeiter, eigenmächtig. Sie öffnen den Schlagbaum. Sie öffnen ein Schleusentor. Era il 1989, caduta del muro di Berlino, un'altra delle vostre segnalazioni, ciò che si sarebbero persi i due vietnamiti ritrovati nella foresta. Sono diventati un'occasione per discutere sui nostri 40 anni cosa si sono persi. Ci sono reazioni che si intrecciano alle reazioni, per cui tra i vostri sms anche chi ci dice: ma coloro che invidiano questi vietnamiti, ci segnala un ascoltatore, potrebbero anche imitarli, mollino tutto e facciano uguale, se ne vadano e smettano di invidiare. C'è poi chi ci dice, Riccardo, che ha 30 anni, che non conosceva Pupi Avati, ma con questo suo discorso sulla vecchiaia e il fatto di racchiudere in se stessi tutte le età, è stato colpito profondamente da questa voce. Voci che abbiamo invitato a una riflessione sugli ultimi 40 anni. Voci che sono anche vostre. Adesso diamo la possibilità agli ascoltatori di parlare, poi torneremo insieme ai nostri ospiti. 800 24 00 24 è il numero telefonico. Comincio da Bergamo, dove in linea per noi c'è Cinzia. Pronto? Buongiorno. Buongiorno Cinzia. Niente, volevo dire che noi siamo pronti a giudicare un mondo che non abbiamo vissuto. Prima di giudicarlo dovremmo provarlo. Io penso che l'unica cosa che loro possono aver perso, appunto, come diceva qualcuno prima, una figura femminile. Però la natura è un grande maestro e io penso che loro sono ricchissimi, cosa che noi non siamo, i nostri bambini non sanno. Questo era il mio messaggio. Loro sono ricchissimi in quanto hanno avuto la possibilità di vivere a contatto con la natura, di arrampicarsi sugli alberi e avere queste emozioni di cui i nostri bambini sono spesso privati. Ci ha segnalato Cinzia, grazie e naturalmente buona giornata. Simone, pronto? Sì, pronto. Buongiorno Simone. No, intanto lancio un saluto al ministro Avati, che mi ha chiesto anche spesso di... Mi scusi, lancia un saluto a Pupi Avati, che ha incrociato. Pupi Avati, che sì, anche mio nonno era scenografo e ci ha lavorato spesso, quindi sentirlo poco prima sulla radio è stato abbastanza bello, diciamo, emozionante. No, io volevo solamente dire che in realtà non riesco ad avere la presunzione di dire cosa si sono persi. Cioè, io ho sentito prima lei ha letto un sms, credo, era un messaggio di un ascoltatore che diceva: in realtà hanno perso la bellezza delle piccole cose. Ma in realtà, al di là di tutti gli aspetti, appunto, psicologici, sulla crescita di un bambino, sulla crescita comunque problematica con un padre isolati nella giungla, però in realtà credo che chi più di loro in quell'ambiente e in quelle condizioni, e padre e figlio, possono però in realtà cogliere di più quelle che davvero sono le piccole cose e non quello che noi crediamo che siano le piccole cose. Tutto quindi qua. Anche lei in qualche modo è permeato un po' da una sorta, non dico di invidia, ma quasi di voglia ogni tanto di isolamento. Questo le può aver suscitato questa vicenda che abbiamo letto sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo, voglia così di fuga, anche lei l'ha provata qualche volta? Cosa, scusi? Questa voglia di fuga, la possibilità di godersi le piccole cose. Sì, ci sta un film, non so se l'ha visto, Into the Wild, bellissimo, uscito qualche anno fa, che appunto racconta di questo ragazzo che, figlio di una famiglia agiata, si trova spesso in mezzo a party, a feste, a situazioni dove viene sperperato denaro e dove praticamente si vive una vita a 2000. Lui a un certo punto decide di mollare tutto, prende e va nella giungla. Ed è una storia vera. Se lei lo vede, una storia vera di questo ragazzo. Adesso non ricordo i dettagli. Simone, grazie per questi stimoli, naturalmente anche cinematografici, perché come avete sentito è nipote di uno scenografo. Marco, pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto voglio dire che bisogna anche calcolare quello che è l'ambiente nel quale vivono gli individui, perché poi questo incide nella formazione della personalità e quindi nella percezione di tutto quello che c'è. Quindi queste persone, non è giusto dire cosa hanno perso, perché bisogna vedere come vedevano loro le cose. E quindi vivendo in un mondo. Il bimbo aveva un anno e chiaramente un'opinione propria su nulla poteva avere. Per quel che riguarda il padre, era abbastanza nauseato da una guerra che si protraeva dal 59 e non ne poteva più. È chiaro che poi il trauma di quel giorno, del bombardamento e della perdita della famiglia quasi per intero, deve aver inciso anche sulla sua psiche, come ci segnalava la psicoterapeuta Veggetti Finzi. E quindi, Marco, lei non ha nulla da segnalare su questi 40 anni? Se potesse avere un incontro con queste persone, naturalmente completamente teorico, cosa vorrebbe che loro condividessero con lei di questi 40 anni? Ma sicuramente la vita in comunità, questo sicuramente l'hanno perso. Il resto del mondo forse non l'avrebbero neanche potuto sapere, perché il Vietnam di 40 anni fa non era certamente il mondo d'oggi, quindi anche il legame con il resto del pianeta secondo me era molto molto molto labile. Grazie a Marco, ci chiamava da Mantova. Adriana, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono stata 2 anni fa in Vietnam, ho fatto un viaggio e quindi penso che comunque loro non abbiano perso niente, perché se fossero vissuti nei loro villaggi, il loro villaggio, la coltivazione per loro, lavorano ancora con l'aratro, e dunque durante il periodo della guerra loro hanno fatto dei cunicoli, 300 chilometri di cunicolo, e i ragazzi sono nati lì e sono usciti dopo 20 anni. Qui avevano gli ospedali, mangiavano, e quindi assolutamente hanno avuto problemi, appunto, questi ragazzi che sono usciti dopo 20 anni, agli occhi. Per cui dico, secondo me questi signori che hanno vissuto nella giungla hanno perso poco, a meno che non fossero vissuti ad Hanoi oppure o in grandi centri urbani. Grazie ad Adriana, l'abbiamo sentita, anche lei chiamava dalla provincia di Bergamo. Ci sono molti aspetti positivi anche della vita moderna e bisogna saperli cogliere, ci segnala un altro ascoltatore. Torniamo al professor Salvemini, ha sentito quanti stimoli e quante opinioni diverse, e dunque la sintesi di questo approccio alla... Lei ci diceva quanto ci siamo portati avanti rispetto alla consapevolezza, rispetto all'emancipazione delle donne e anche al pianeta. C'è un ascoltatore che la contesta tramite SMS, professor Salvemini, e chiede di cosa sta parlando. La salute e la sostenibilità del pianeta è ben peggiore oggi che 40 anni fa. Beh, questo può anche essere vero. Però è anche vero che attraverso l'accesso delle informazioni tutta una serie di informazioni negative relativamente all'effetto serra, rispetto agli aspetti ambientalisti, non avrebbero poi prodotto l'accordo di Kyoto, che poi dopo, volente o nolente, ha provocato un passo avanti di consapevolezza globale. Chi contesta questa cosa vorrei che fosse andato veramente nel Vietnam o in Indocina, in Cambogia o nel Laos negli anni 70 e avesse capito come effettivamente vivevano queste persone. E ha ragione l'ultima ascoltatrice, non tanto nelle metropoli, quindi ad Hanoi o a Saigon, ma nell'entroterra, e la situazione è molto diversa. Cioè, non possiamo immaginare che la globalizzazione abbia prodotto solamente elementi negativi, che comunque ci sono stati. Avete citato per esempio il fatto della fine della guerra fredda, del crollo del muro di Berlino, ecco, tutti temi che insieme alla mobilità internazionale hanno fatto sì che il Vietnam di oggi non è il Vietnam di 40 anni fa, nel bene e nel male. E c'è anche chi cita le Twin Towers come esempio di ciò che questi vietnamiti non si sarebbero persi. Tutte le guerre che sono seguite all'attentato, tutta la tensione, la creazione di due mondi. C'è chi cita Barack Obama, dottoressa Silvia Veggetti Finzi, lei è rimasta sulla sfera personale e ha detto dunque ciò che si sono persi soprattutto è stata la relazione, un mondo di relazioni, ciò che rende degno e degna la vita di essere vissuta. E alla sua segnalazione si sono uniti, dobbiamo dire, la maggioranza degli ascoltatori che hanno partecipato anche via SMS a questa riflessione sugli ultimi 40 anni. Noi ci lasciamo, ora ritorneremo domani mattina alle 8:15 con Spunti di Vista. Grazie a Carmelo Lauricella, Luca Cremonesa, Marco Lombardo, a Benedetta Acri e a tutti voi. Da Irene Zerbini un saluto.